combattenti di terra, di mare e dell'aria, amici neri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ti scrivo per paura di vedere una lacrima che porta via la mia anima, rinasce nell'oscurità. Metà a metà che non sarà peggiore il tempo che passerà, senza guardarti camminare verso me felice. Potevo salutare o lasciarti le mie amarezze in un fiore, ma non mi si addice. Preferisco volare via senza segni né cornice, violando la chiusura mentale di chi dice che non sono un uomo, sperando che tocchi a te decidere chi sono e chi non sono. E se sono solo, il tempo sarà il mio compagno e mi aiuterà a sperare di restare vivo e persino di vedere il mio amore in mezzo ai panni bianchi che come tanti bambini si muovono ormai stanchi della partita che chiamiamo vita. C'è un imbroglio sotto questa musica ascoltata e riascoltata, cioè quindi musica sarà diversa anche in guerra dove c'è povertà e sofferenza. Ci sarà un modo per apprezzare quanto possiamo fare in ogni piccola goccia di emozione umane. Sarà perché forse morirò, sarà perché non ti rivedrò, il tempo sembra chiudersi intorno a me. Sarà che nella vita ho servito sempre chi c'era da servire, tutta la gente è tanto stupido da non capire, di non sentire me. Sono qui, sdraiato sul cemento, pensando e sentendo ogni lamento di chi come me non vedrà il domani di questo mondo stretto tra le mani. Rimani tu per me a vedere come sarà, perché forse il mio ricordo passerà come il vento che spazzerà i miei resti via dal cemento. Ed io sarò contento di aver conosciuto l'amore di una vita che tutti cercano fin dalla nascita. Io ti ho scovata, passare davanti a me, poterti stringere come una pietra di inestimabile valore sullo sfondo dei miei occhi. In queste ore oggi un soldato muore, non una faccia, non un nome, ma delle cifre sporche di fango che non si sa che fine fanno. Sarà perché forse morirò, sarà perché non ti rivedrò, il tempo sembra chiudersi intorno a me. Quello che ho, quello sarà che nella vita ho servito sempre chi c'era da servire, tutta la gente è tanto stupido da non capire di non servire me. Sembravano finite ormai le ore di agonia, si vedono ombra sul mio stesso cemento in quella via. Penso di poter andare via, penso di poter salvare la vita mia, riabbracciare te che mi hai tanto atteso. Ti scordo tra le bianche lenzuola che sono tornate a giocare come i bambini nelle loro gocce dentro il mare. Ed ora penso di poterti rivedere. Sarà perché forse morirò, sarà perché non ti rivedrò, il tempo sembra chiudersi intorno a me. C'era da servire tutta la gente, è tanto stupido da non capire di non sentire bene. Sarà perché forse morirò, sarà perché non ti rivedrò, il tempo sembra chiudersi intorno a me. Quello che ho, quello sarà che nella vita ho servito sempre chi c'era da servire tutta la gente, è tanto stupido da non capire di non sentire.